Una paradossale constatazione. C'è un barlume di promettente spirito del contemporaneo nel cuore del disastro che sta sconvolgendo la Cina all'indomani del sisma che ne ha brutalizzato un'ampia fascia di territorio, poderose metropoli di cui a malapena riusciamo a sillabare il nome, scuole, fabbriche e tutte le tragedie che le cronache ci riportano. Il dato positivo è quello che ci parla di informazione, di trasparenza della comunicazione, di chiarezza, sincerità, assenza di inutili pudori o giochi di potere nell'esporre al mondo quanto è accaduto, comprese le conseguenze degli errori umani, quelle che fanno parte delle debolezze di un regime cresciuto con una fretta assurda, quasi inumana, ad esempio costruendo scuole con materiali di pessima qualità o edificando fabbriche pericolose in location ad alto rischio. La stessa Cina che promette di celebrare la grandeur della sua ascesa nelle Olimpiadi tra meno di 3 mesi, oggi è attonita di fronte a quelle macerie che seppelliscono migliaia di cittadini inermi, a cui non sono stati indirizzati quei criteri di sicurezza e protezione che fanno parte della modernità. Eppure la stessa Cina ha smesso di nascondersi, ha smesso di alzare nebbie allorché l'errore diventa colpa. La Cina del 2008 ha imparato che la grandezza a cui aspira consiste anche nel mostrarsi con tutta la decenza possibile al giudizio di miliardi di sguardi indiscreti.